I nomi delle cose, lo spazio di riflessione della coordinamenta femminista e lesbica. Ciao a tutte, ciao a tutti. Questa è la prima puntata del nuovo anno dei nomi delle cose, la prima puntata del 2017 e abbiamo deciso di dedicarla al femminismo. L'abbiamo intitolata infatti Riflessioni femministe sul femminismo, perché vorremmo proprio riflettere su cosa significhi essere femministe e darvi degli spunti da cui cominciare e vedere cosa ne viene fuori e dove possiamo arrivare. Siamo partite da un articolo di Megan Murphy. Megan Murphy è una femminista canadese che ha scritto un pezzo in cui definisce 9 punti, 9 cose che dovrebbero costituire l'essere femminista. Per lei non era una presa di posizione così a ciel sereno, era venuta da la lettura di tutta una serie di articoli e di scritti dei media mainstream, di tutti i giornali femminili e non femminili, ma anche che si ponevano come femministi o comunque genericamente radicali, che hanno parlato e continuano a parlare di femminismo dicendo delle cose che in effetti non solo molto femministe non sono, ma che propagandano un'idea di femminismo che è tutt'altro rispetto a quello che Megan Murphy poi ha detto, secondo me, come dovrebbe essere, e ha in effetti buttato giù questi 9 punti. Allora, noi abbiamo letto l'articolo e ci è sembrato estremamente interessante e quindi partiamo dall'analizzare i punti che lei ha definito e che ha dato come spunto appunto di riflessione. Allora, il primo dice: essere una donna è centrale rispetto all'essere femminista, perché il femminismo è un movimento fatto dalle donne per le donne. Noi l'abbiamo un attimo sintetizzato, perché lei in effetti poi continua e dice: voi potete essere, vi traduciamo così di corsa, voi potete essere un super alleato delle femministe anche se siete un uomo, ma voi non saprete mai veramente cogliere il vissuto femminile. Visto che le donne sono il gruppo che è oppresso dal patriarcato, quasi come se fosse una classe, e che gli uomini sono il gruppo dominante in questo sistema, sono le donne che devono condurre il percorso della loro liberazione. Quindi essere una donna è centrale rispetto al fatto di essere femminista, perché il femminismo è un movimento che esiste per le donne ed è fatto dalle donne. Poi continua: e anche se gli uomini sono ugualmente oppressi dal patriarcato, perché per esempio il mito della virilità è una costruzione sociale, no? In fin dei conti sono gli uomini però che hanno avuto dal patriarcato tutti i benefici e tutti i vantaggi, e le donne sono quelle che invece ne hanno sofferto proprio per mano degli uomini. Quindi la cosa migliore per sostenere il movimento femminista, essendo uomo, è di tener testa agli altri uomini, ai privilegi maschili e alla violenza maschile. Infatti, in questa modalità ci aiuterebbe, risparmierebbe di farci perdere tempo continuamente a spiegare a ogni uomo e a ogni uomo che incontriamo perché noi siamo Realmente, perché noi non siamo degli oggetti sessuali, o comunque che cos'è il femminismo, o comunque gli uomini possono fare, aiutare, fare questo, cioè lavorare su di loro e non con noi, per noi, o esprimersi come femministi, proprio senza proprio senza doversi qualificare come femministi, perché gli atti, lei dice, e contano più delle parole. Allora, questa è una traduzione a braccio di quello che lei ha scritto, ma insomma il contenuto è questo, e noi conveniamo che infatti essere una donna è centrale rispetto all'essere femminista, perché il movimento delle donne, perché il femminismo è un movimento fatto dalle donne per le donne. Questo apre tutta una serie di riflessioni, in effetti, su quello che è il patriarcato. Perché per definire il rapporto con il maschile noi dobbiamo definire prima di tutto che cos'è il patriarcato, e mi pare che questo, ci pare che questo si sia perso abbastanza, altrimenti se si ricominciasse veramente a parlare di patriarcato partendo dalle basi, partendo da quello che in effetti è, ci si dovrebbe chiedere il rapporto che ci può essere tra oppressore e oppressa, tra aggressore e aggredita, perché questo in effetti è il rapporto che dentro il patriarcato esiste tra il maschile e il femminile, e bisognerebbe ricominciare a riflettere sul separatismo, per esempio, come modalità di lotta delle donne e del movimento femminista tutto. Il secondo punto dice: il femminismo non è un sentimento né un'identità, è un movimento politico. Perché questo? Le è venuto in mente questo? Perché in effetti sulla stampa mainstream e comunque sui canali che propagandano il cosiddetto femminismo emancipatorio, comunque il femminismo che va per la maggiore, quello che viene propagandato come femminismo, c'è un tentativo di spoliticizzare il movimento femminista, ma di renderlo una rivendicazione di più di sentimenti, di collocazione sociale, culturale, di posizione personale, che non in effetti il risultato di un'analisi politica di che cos'è il patriarcato e di come sono costruite i ruoli sessuati, perché in effetti il maschile e il femminile sono costruzioni sociali. Lei, per esempio, rispetto al secondo punto, questo, il femminismo non è un sentimento né un'identità, è un movimento politico, dice: il femminismo non consiste nel portare una t-shirt che dice che noi siamo femministe. Non si tratta di definirsi femminista tanto per definirsi femminista o per principio. Mentre per esempio poi non si porta avanti nulla per liberare le donne dalla loro oppressione, patriarcale. È chiaro che non tutte hanno una preparazione femminista di lunga data, possono avere un approccio femminista recente, di poco tempo, questo è normale, no? Però diciamo, bisognerebbe che chi si avvicina al femminismo cerchi di comprendere che cosa significa far parte del movimento femminista, e che la parola femminismo non è una parola che si può cambiare, rendere malleabile, lei usa questo termine, o un logo che può essere usato come quello di un prodotto commerciale. Infatti lei fa un esempio e dice: nessuno dirà mai il socialismo è fatto da ciascuno a modo suo, no? Ognuno ha il suo proprio socialismo. Perché non solo, dice, sarebbe stupido, ma nei fatti è proprio sbagliato, è erroneo, cioè è una cosa che non si può dire. E quindi, se voi siete d'accordo con il fatto che l'oggettivazione, il fatto che la donna sia un oggetto, e che i privilegi maschili o gli stereotipi di genere non esistono, o che l'erotizzazione della violenza, tutto sommato, ha un senso ed è un modo, di essere, potete anche fare a meno di dire non siete certamente, una femminista, no? O addirittura un femminista. Allo stesso tempo, essere femminista non significa fare un mucchio di soldi attraverso dei marchi o attraverso una modalità che propaga anche praticamente dalla parte delle donne, usarla come strumento di emancipazione, no? No, non è proprio femminista. Anzi, diciamo, anche se le femministe hanno diritto a fare queste cose, cioè non è che una non è femminista perché si arricchisce, non è che una non è femminista perché ha successo, eccetera. Però non è che usare il femminismo per avere successo, significa la stessa cosa, no? E quindi perché il femminismo, lei conclude, non è in effetti una promozione personale, cioè non è un non, non, non, non, si, non, non si può riassumere nella propria promozione personale, non si può riassumere in un discorso di soltanto di valorizzazione di se stesse, ma il femminismo è un movimento che è fatto, che è una rivendicazione, un movimento, un agire politico collettivo. Cioè, in pratica, non è che la propria promozione personale sia qualcosa di negativo, oppure fare quello che una desidera sia qualcosa di negativo, anzi, tutt'altro. Se ci fa sentire bene, se ci fanno sentire bene certe cose, compreso anche banalmente seguire la moda o avere delle modalità di trasgressione sessuale che ci fanno sentire bene, oppure fare delle cose che ci danno soddisfazione come donne. Questo però è una promozione personale che non porta avanti qualcosa per le donne in quanto gruppo sociale oppresso. Terzo punto riguarda l'ideologia. Meghan Murphy ci dice che non c'è impegno politico senza ideologia, L'ideologia è l'insieme delle idee che definiscono un movimento politico. E questo è quanto mai giusto, perché c'è stato un momento, diciamo alla fine degli anni 70, in cui il femminismo, una parte del femminismo, quello che poi è risultato vincente, ha cavalcato un pensiero che definiva le ideologie come qualcosa da cui rifuggire assolutamente. Infatti una delle parole d'ordine, chiamiamole così, era contro tutte le ideologie, che è una cosa che non sta né in cielo né in terra, perché è una contraddizione in termini, dato che l'ideologia non è altro che la somma delle idee che definiscono un movimento politico. Cioè, se si fa un percorso di liberazione, se si analizza una situazione di oppressione, si individua da dove viene l'oppressione e si desidera e si lotta e si agisce e si costruiscono percorsi contro questa oppressione per liberarsi da questa oppressione, tutto questo è un movimento politico ed è guidato da una visione diversa del mondo rispetto a quella in cui stiamo. Una visione diversa del mondo di per sé è un'ideologia. Chiaramente non tutte quelle che fanno percorsi di liberazione, cioè non, ci sono diversi modi di cercare di mettere in atto percorsi di liberazione e ci sono diversi modi di vedere questi percorsi di liberazione, quindi ci sono delle ideologie di fondo che sono diverse rispetto a questi percorsi di liberazione. Prima di tutto però, dato che fanno riferimento al femminismo, quindi alla liberazione delle donne, hanno dei connotati comuni e una base comune di riferimento. Tant'è vero che noi diciamo sempre che il femminismo è comunque quello che si pone il problema della liberazione. E il problema della liberazione e il problema di mettere in atto percorsi di liberazione vuol dire mettere in atto percorsi di uscita da questa società, perché altrimenti non ci sarebbe l'analisi del patriarcato, non avremmo capito che cos'è il patriarcato, non ci porremmo il problema di sovvertire quelli che sono i principi fondanti del patriarcato, che sono tutti con l'impostazione capitalista, in questo momento neoliberista, di questa società, per cui chi fa percorsi di liberazione li può mettere in atto in diversi modi, quindi può avere dei pensieri rispetto a questo diversi, però il momento fondante è mettere in atto percorsi di uscita dal sistema in cui stiamo. Questo presuppone un'idea. Quest'idea, l'insieme di queste idee non è altro che un'ideologia politica. Quindi dire che il femminismo è contro l'ideologia o contro tutte le ideologie è una assoluta contraddizione in termini. Parallelamente, è allo stesso tempo c'è una parte di femminismo che si pone come anti-intellettuale, no? Impostando un discorso di avversità rispetto a una cultura che però non deve essere confusa con quella accademica, cioè la preparazione culturale, leggere, l'informarsi, l'essere partecipe di una storia, questo è fondante rispetto a qualsiasi movimento politico. Il problema è diverso se uno parla di accademia, se uno parla di un sapere che è istituzionalizzato, e allora qui si aprono scenari diversi che anzi vanno in direzione dell'uso che il sistema fa dei principi messi in atto dai movimenti di liberazione per usarli di nuovo e riciclarli a suo uso e consumo. Punto 4. Il femminismo non c'entra con il politicamente corretto. E infatti essere femministe è vero, non c'entra niente con l'essere politicamente corrette. Il politicamente corretto è addirittura uno strumento per non cambiare niente. Perché? Perché il politicamente corretto si pone il problema formale di non rispettare, fra virgolette, le diversità, di rispettare le opinioni altrui, di essere sempre, di accettare le differenze, a parte il fatto che questa impostazione, che è un'impostazione della cosiddetta socialdemocrazia, e in particolare quella di adesso, la socialdemocrazia riformista, è una posizione del più forte, cioè praticamente il più forte, quello che detta le regole del gioco, mistifica il suo potere e la forza che ha attraverso la pretesa di non vedere messe in discussione in maniera forte, in maniera eclatante e anche in quella maniera che lui definisce violenta, le opinioni altrui. Però questo significa che sotto sotto l'opinione che non deve essere messa in discussione di fatto è quella vincente. Perché? Perché chi è che si opporrà in maniera, avrebbe l'esigenza di opporsi in maniera violenta, in maniera forte, in maniera cosiddetta scorretta rispetto al politicamente corretto? Quelli che subiscono, no? Quelli che tutte quelle soggettività, categorie, persone, classi, eccetera, che sono in condizione di subire. Allora, quest'arma però viene usata sempre, diciamo, presentandola e facendola passare attraverso nobili intenti e migliori fini, per cui il politicamente corretto diventa formalmente un modo per non si dice negro, ma si dice nero, non si dice spazzino, ma si dice operatore ecologico, non si dice praticamente ci deve essere un'attenzione, non si dice handicappato, ma si dice diversamente abile. Però questa è tutta una posizione formale che poi in effetti finisce col nascondere attraverso una attenzione pelosa quello che è in effetti il disinteresse totale, non solo, ma l'oppressione di tutta una serie di soggettività subalterne. È una forte arma il politicamente corretto, quindi nel nostro campo, nel femminismo, il politicamente corretto viene messo in atto attraverso tutta una serie di richieste che partono sempre da quello che noi chiamiamo femminismo socialdemocratico, che ha imposto una certa modalità. Praticamente non si usano parole sessiste, non si usano offese sessiste, non ci si può porre rispetto alle donne, cioè alle categorie femminili, no, il maschio non si può porre, gli uomini non si possono porre rispetto alle donne, con tutta una serie di affermazioni perché sono maschiliste, sessiste, patriarcali. D'accordissimo, è tutto vero, nel senso che dovrebbe esserci un'attenzione nei confronti del linguaggio che dovrebbe rispecchiare però una sostanza. Perché se poi l'attenzione che si usa nel linguaggio è soltanto una modalità di superficie, che nasconde il riproporre anche in maniera molto pesante l'oppressione delle soggettività a cui viene rivolta, addirittura diventa una presa in giro. Faccio un esempio. Allora è chiaro che le offese sessiste sono quelle classiche che vengono dette quando, per esempio, faccio degli esempi banalissimi, no? Quella è una puttana detta dagli uomini, quella è una puttana. È chiaro che è un'offesa sessista, non solo un'offesa sessista, ma poi è un'offesa che passa attraverso l'uso di una categoria che è quella delle sex workers, che viene usata come persona che si vende, quindi infima e quindi riprovevole, e questo rispecchia tutta una scala di valori che noi, da cui noi rifuggiamo assolutamente, per cui la sex worker non è assolutamente altro che una lavoratrice del sesso, no? Però Questo sistema qua non è un sistema che mette in atto meccanismi per cui il lavoro sessuale o è libero e quindi o è una libera scelta o una chiaramente lo fa o non lo fa. No, no, no, in questo sistema nulla è una libera scelta, ma neanche gli altri lavori, intendiamoci, per cui è assolutamente una presa in giro il fatto di avere attenzione rispetto a queste cose. Ciò non significa che molto spesso però l'attenzione poi anche rispecchia un momento anche di riflessione, quindi non è assolutamente da buttare via, però in questo momento ha preso assolutamente il sopravvento una attenzione formale estremamente negativa, che è tanto più eclatante quanto più questo sistema sta diventando pesantemente sessista, classista, razzista, fascista, e tanto più questo avanza, tanto più il politicamente corretto ha pretese formali in questo senso. Punto 5. Il femminismo non è scontro generazionale, ma anzi cerca il collegamento con le donne che hanno lottato nel passato. C'è una tendenza, infatti, a dimenticare, anzi a rifuggire, anzi a cassare tutto quello che è successo nel passato, perché basta, non se ne può più, quelle che hanno lottato negli anni 70, quelle che hanno lottato negli anni 60, ormai, anzi diciamo che da qualche tempo c'è addirittura una presa di posizione contraria. Abbiamo assistito a delle parole in rete molto pesanti rispetto alle femministe storiche che hanno posto i problemi come il separatismo e roba del genere, che addirittura è stato detto estinguetevi, cose, parole di questo tipo. È una posizione estremamente miope, non nei riguardi dello specifico, è una posizione estremamente miope, perché quella che è l'esperienza dei movimenti di liberazione e di lotta del passato è un grande patrimonio da cui non si può prescindere e da cui si può prendere soltanto insegnamento, per due motivi. Primo, perché non si ripetano gli errori del passato. E secondo, perché tante cose che si ripropongono adesso sono state dette già, sono state affrontate e c'è stato un ventaglio di proposte, è un ventaglio di tentativi da cui si può prendere assolutamente linfa. E questa è una tendenza, questa di rifugiare, cioè di presentare il passato come ormai inutile, che è proprio tipica di questa società, perché è un tipo di società che porta avanti l'uso delle idee, il consumo veloce non solo delle idee ma delle proposte, il consumo veloce di tutto. Tutto è si usura, si usa, si usura e viene dimenticato in poco tempo. Ma questo succede anche, per esempio, nel mondo del lavoro, cioè i giovani che hanno qualche idea vengono assunti, presi nelle imprese, sfruttati per 5 anni, eccetera, e poi buttati. Questo succede ai ricercatori che vanno all'estero, succede a tutti quelli che hanno e soprattutto a quelli che fanno ricerca, per esempio, è particolarmente eclatante, però è un aspetto specifico della nostra società che si pensa, cioè non che si pensa, è stato propagandato perché così le idee, la forza lavoro, la disponibilità delle persone viene sfruttata al massimo e poi gettata, che tutto quello che è più è moderno e più è all'ultimo grido, più è dell'ultimo momento, più è dell'ultima ora e più è buono. Punto 6. Non si devono accusare le femministe di detestare il sesso e gli uomini come se questa fosse una brutta cosa. È chiaro che c'è soprattutto da parte, c'è un comune sentire, no? Che dice: ah sì, quella là è una femminista, bah, è perché. Non lo so, non scopa abbastanza, e per cui oppure detesta il sesso perché non scopa abbastanza, perché non ha appeal, perché che è brutta, oppure ha delle fobie nei confronti degli uomini, allora è femminista e compagnia bella, no? Però in effetti le donne sono le prime a essere autorizzate, dice Meghan Murphy, a detestare gli uomini e il sesso. Detestare gli uomini nel sesso è perfettamente normale, è perfettamente normale. Gli uomini, il sesso con gli uomini ed è spessissimo per le donne fonte di traumi in una quantità proprio innumerevole, no? Da tanti secoli. E quindi è un fatto del tutto normale che ci sia un rifiuto del sesso e un rifiuto che le femministe, che molte femministe abbiano un rifiuto del sesso e un rifiuto degli uomini. Però non è un motivo di accusa e non è neanche un motivo di giudizio di nessun tipo, anzi, forse dovrebbe essere motivo di riflessione, no? Allora, dopodiché. E comunque fare sesso, non fare sesso, il sesso è soltanto uno degli aspetti della vita, non è così centrale come anche questa società cerca di far passare, sotto tutti i punti di vista, da una parte demonizzandolo, dall'altra parte propagandandolo, dall'altra parte facendone uno strumento fittizio di liberazione, cioè il sesso è un argomento sempre centrale, sia che lo si usi per stigmatizzarlo, sia che lo si usi per usarlo come motivo di diciamo fornirlo, perché il sistema spesso usa questi meccanismi, cioè fornisce un parziale circoscritto strumento e lo fa passare per strumento di liberazione. Allora, siamo arrivate al punto 6. Prendiamoci un piccolo stacco e poi facciamo gli altri tre. In Punto 7. Una femminista non può essere dalla parte del patriarcato. E qui si aprono, per esempio, scenari quanto mai attuali e importantissimi. Perché? Perché in questo momento il patriarcato, il capitalismo nel suo momento neoliberista, quindi il neoliberismo avendo sussunto a suo uso e consumo il patriarcato, sta mettendo in atto un meccanismo per cui coopta quelle che le femministe, tra virgolette, che attraverso l'emancipazione sono disponibili a mettersi al servizio del sistema, le usa per rafforzare le sue politiche attraverso dei meccanismi di uso dell'emancipazione, e queste che si prestano hanno dei vantaggi chiaramente personali, di carriera, di promozione sociale. Questo è un meccanismo specifico di questo momento storico, e noi come coordinamento ne abbiamo parlato tanto, abbiamo parlato sempre delle patriarche, no? Di quelle che usando il femminismo, usando l'emancipazionismo, facendolo passare per femminismo, lo usano per la propria promozione personale, si mettono al servizio del sistema. Ma una femminista non può essere dalla parte del patriarcato. Punto 8. La donna oggetto e la nudità non sono la stessa cosa. Eh sì, nel senso che la donna oggetto sappiamo tutti e tutte quello che è, cioè l'uso e l'abuso che si fa in questo momento, cioè che si è sempre fatto, ma in questo momento preciso c'è un uso, un abuso del corpo della donna come strumento di tutti i tipi, dalla pubblicità ai mass media, alla propaganda di vario tipo. Poi c'è l'altro aspetto, l'oggettivazione del corpo che fa lo sguardo maschile, che fanno gli uomini, il modo di approcciare la donna come oggetto sessuale. Qui si aprono scenari su cui il femminismo ha indagato tantissimo, però allo stesso tempo non bisogna confondere questo tipo di meccanismo e questo tipo di approccio con con il nudo, cioè con la condanna del nudo e di tutto quello che riguarda il corpo e di tutto quello che riguarda cioè i nostri corpi possono essere ammirati, possono piacere, cioè esistono e possono essere guardati, ammirati, vissuti. Una cosa è l'oggettivazione e una cosa è la nudità, una cosa è il piacere e una cosa è l'uso della donna come oggetto. Sono due percorsi completamente diversi. 9. Il femminismo non può essere accattivante perché il femminismo è lotta e come tale dice delle cose sgradite. Eh sì, e questo è un punto importantissimo perché il femminismo è difficilmente, chiamiamolo così fra virgolette, popolare, ma è impossibile che sia popolare, è impossibile che sia facilmente accettato, è impossibile che sia gradito, perché il femminismo è contro questo ordine sociale, il femminismo vuole uscire da questa società e pertanto si pone in maniera forte, in maniera trasgressiva, in maniera antagonista e dice delle cose sgradite. Quindi non è una tendenza di moda, non è una cosa che può andare per la maggiore, non è un non ha una visibilità mediatica accattivante, non dovrebbe avere questo, perché il femminismo è contro quest'ordine sociale, ed essendo contro quest'ordine sociale, si pone contro le regole di questa società. Allora, questi sono i 9 punti da cui siamo partite leggendo quelli che Meghan Murphy ha scritto nel suo articolo. Li abbiamo percorsi in maniera veloce perché ognuno di questi punti meriterebbe un discorso molto molto lungo e una riflessione altrettanto importante. Proprio per questo noi ve li proponiamo e pensiamo che per ognuno di questi pensiamo di fare una trattazione a parte. Noi adesso ve li abbiamo messi come proposta, ci farebbe piacere che anche voi ci rifletteste e magari ci scriveste o sul nostro blog coordinamenta.noblogs.org oppure sulla posta coordinamenta@autistiche.org perché abbiamo intenzione di fare una riflessione su ognuno di questi 9. Grazie, alla prossima, ciao, un abbraccio.